Focus Economia. Una buona giornata da Simone Spezia, oggi in conduzione di Focus Economia, in una giornata nella quale qualche spunto, pur essendo a fine di luglio, si riesce a trovare. Il decreto anticrisi ha esaurito il suo cammino alla Camera e nei giorni scorsi ne abbiamo parlato ampiamente, e però c'è un tema che sta agitando in queste ore la maggioranza, un tema molto politico a dir la verità, dove però qualche aspetto economico naturalmente c'è, ed è quello del Sud. Tra l'altro su questo tema si è appena concluso un vertice a Palazzo Grazioli, la residenza del Presidente del Consiglio, dove c'erano svariati ministri. In questa puntata di Focus Economia parleremo di questo, parleremo della creazione delle imprese, perché ci sono dei dati interessanti che arrivano dalla Francia per una nuova iniziativa di creazione rapida dell'impresa. Parleremo di mercati naturalmente, come sempre, perché poi la giornata tra l'altro oggi è particolarmente positiva. Il FTSE All Share guadagna l'1,46%, il FTSE MIB l'1,64%, positiva è un pochino tutta Europa, nonostante la debolezza di Wall Street. Il Dow Jones c'è dello 0,38% in questo momento. A guidare i rialzi ci sono Mediolanum e Luxottica. Ci sono tra l'altro svariate semestrali in queste ore che stanno uscendo, e ne accenneremo quando parleremo di borsa. E poi naturalmente torneremo anche sulla vicenda risanamento, perché ci sono aggiornamenti soprattutto sul fronte giudiziario, dal fronte dei tribunali. Parleremo anche di evasione fiscale, ma iniziamo con le notizie in breve di questa giornata. Come sempre, prima di tutto, il petrolio. Un'apertura in calo a New York a $65.65 al barile. E sempre dagli Stati Uniti arrivano dati sugli ordini dei beni durevoli. A giugno un meno 2,5%. Al netto del settore dei trasporti, però, si è registrato un inaspettato rialzo dell'1,1%, il maggior incremento nel giro degli ultimi 4 mesi, contro la previsione di un dato che invece era invariato. Nonostante questo, come vi abbiamo detto, le borse sono in calo. Si diceva meno 0,39 sul Dow Jones, meno 0,51% sul Nasdaq. E a proposito di mercati, sempre dagli Stati Uniti arriva una notizia curiosa, perché nemmeno Ben Bernanke, il presidente della Federal Reserve, la banca centrale americana, è stato risparmiato da questa crisi. A quanto pare il valore degli asset finanziari di Ben Bernanke è sceso nel corso del 2008 del 29%, è quel che emerge dalle comunicazioni della stessa Fed. Restiamo in America, perché oggi è arrivata una notizia importante. Molto si sta muovendo, come sapete, come avrete letto e sentito nei mesi scorsi, sul fronte dell'online e della raccolta pubblicitaria su internet. Si muovono i grandi colossi, e come era nell'aria, come era stato detto già da qualche tempo, qualche blog l'aveva anticipato, oggi è arrivato l'annuncio ufficiale: Microsoft e Yahoo hanno raggiunto un accordo per la collaborazione su internet. Microsoft in sostanza riceverà una licenza decennale per le tecnologie di base del motore di ricerca di Yahoo. Il sistema Bing di Microsoft, che è il nuovo sistema di ricerca di Microsoft, diverrà la piattaforma di ricerca per il sito Yahoo. Insieme Microsoft e Yahoo controllano circa il 28% del mercato americano dei motori di ricerca, contro il 65% di Google, ed è proprio da Google, anche se non viene citato espressamente, che partono le parole dell'amministratore delegato, del CEO di Microsoft, Steve Ballmer, che annuncia l'accordo. È stato compiuto un lungo percorso, ma siamo arrivati all'annuncio di oggi. Questo accordo è positivo per milioni di utenti, di investitori pubblicitari e di editori. Oggi i motori di ricerca sono la principale via di accesso alle informazioni e la pubblicità è la benzina per le aziende presenti su internet. In questo momento c'è una sola compagnia che domina il mercato del web. L'accordo che abbiamo concluso oggi aiuta a rafforzare la nostra posizione come numero due nel campo dei motori di ricerca e stimola la concorrenza sul web. Abbiamo sempre creduto che la ricerca sia la base dell'innovazione. Per rendere più semplice e più più utile, la ricerca degli utenti, abbiamo fatto un grosso passo avanti 2 mesi fa, quando abbiamo annunciato l'avvio di una nuova piattaforma, Bing, che ha già raggiunto importanti risultati in termini di successo di pubblico, superando le nostre previsioni. L'accordo di oggi con Yahoo è il passo successivo per creare nuovi standard nel mercato della ricerca su internet. Ecco, non che la cosa sia stata particolarmente salutare, quantomeno per il titolo in borsa Yahoo, quantomeno per Yahoo che ha ceduto il 10%, o meglio sta cedendo in questi minuti, il 10% sui mercati. Veniamo all'Europa, piano piano ci avviciniamo all'Italia. Veniamo all'Europa, la Banca Centrale Europea dice che nel secondo trimestre dell'anno si è allentata la stretta sul credito messa in atto dalle banche. È la rilevazione della BCE nel sondaggio di luglio sul credito bancario, nel quale appunto rileva che la percentuale di istituti che hanno irrigidito i parametri per concedere finanziamenti alle imprese è più che dimezzata, passando dal 43% del primo trimestre al 21%. Chissà poi cosa sta succedendo davvero sul campo. Comunque la Germania, dati dalla Germania importanti, perché c'è l'inflazione che è negativa, in calo dello 0,6% ed è la prima volta dal 1987, il tasso su base annua appunto relativo a luglio. A giugno l'inflazione tedesca era stata dello 0,1%, il mese precedente già negativa con uno 0% per la prima volta da 22 anni. Molte trimestrali, ma non solo. Oggi tra i titoli positivi in borsa c'è Finmeccanica e stiamo arrivando all'Italia. È salita a Piazza Affari all'indomani della firma di un accordo con i fondi sovrani libici per dare la vita ad una joint venture destinata a sviluppare in Libia, Medio Oriente e Africa la cooperazione nei settori dell'aerospazio, dell'elettronica, dei trasporti e dell'energia. Stando a quello che ha detto il presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, Francesco Guarguaglini, dall'accordo siglato tra Finmeccanica e Libia si può ipotizzare un giro d'affari di 20 miliardi di euro. E poi c'è Alitalia. Oggi pomeriggio c'è il consiglio d'amministrazione per i conti del semestre. C'è un nodo ancora importante che rimane in ballo ed è il nodo di ATTech, ossia la società responsabile della manutenzione e revisione degli aerei della vecchia Alitalia che ha sede a Napoli. Ci sono stati momenti di forte tensione con scontri all'interno dell'aeroporto di Capodichino tra i lavoratori dell'ATTech che hanno bloccato i check-in di Alitalia ed Air One e i poliziotti in assetto da sommossa. A quanto sembra però, a quanto ha riferito il presidente della regione Campania Antonio Bassolino, che ha sentito il commissario straordinario di Alitalia Augusto Fantozzi, il quale gli ha assicurato che i soldi per gli stipendi saranno sbloccati. Poi c'è, e parliamo di un'altra azienda in difficoltà, ossia Risanamento, il giudice ha rinviato l'udienza entro il primo di settembre ci sarà il deposito del piano. Poi di Risanamento naturalmente torneremo a parlare più avanti. Il ministro dell'economia Tremonti ha fatto la sua replica al Senato per quanto riguarda la discussione del documento di programmazione economica e finanziaria. Tra l'altro sarà probabilmente l'ultimo documento di programmazione economica e finanziaria della storia italiana, perché a settembre dovrebbe finire il cantiere per la creazione del nuovo sistema di finanza pubblica italiana. Dice Tremonti che in Italia c'è un'altissima coesione sociale e l'Italia è un paese ancora pacificato. Dice sempre Tremonti che le entrate vanno meglio che in altri paesi, sono in linea con le previsioni e l'andamento ha una dinamica appunto meno negativa che negli altri paesi. E poi ha aggiunto che la speculazione è un fattore di rischio per la ripresa economica. Il ministro dell'economia ha parlato anche di sistema pensionistico dicendo che il nostro sistema, il sistema italiano, con le modifiche adesso al varo che riceveranno tra poco il via libera, è un sistema tra i più stabili. Nel decreto legge c'è una norma che stabilizza, in ragione della base demografica e delle proiezioni demografiche, stabilizza il sistema delle pensioni italiano. Diventata legge quella legge, il sistema di pensioni italiane diventa tra i più stabili d'Europa. Quando ci dicono manca una strategia di medio termine, manca un exit strategy, noi non parliamo inglese, quindi preferiamo parlare di interventi e di provvedimenti di medio andare. Beh, quella non è una norma particolare, speciale, quella è una norma fondamentale per stabilizzare una voce fondamentale della vita civile del Paese e anche dei bilanci pubblici. Noi, incorporando quella modifica che allinea sul profilo demografico il sistema delle pensioni, avremo il sistema di pensione tra i più stabili d'Europa. E poi il ministro dell'economia ha parlato anche dei conti pubblici italiani, come era ovvio in quella sede, dicendo che la dinamica del deficit è sotto la media europea. È stato detto che altri paesi hanno fatto di più. È assolutamente vero. Molti paesi hanno fatto di più, ma hanno fatto di più come interventi pubblici per stabilizzare il loro sistema bancario e finanziario. Per la prima volta negli anni recenti, il profilo, la dinamica del deficit e del debito italiano è sotto la media europea. E questi sono i numeri che si acquisiscono in Europa. Ci è stato detto troppe volte l'Italia è in declino, l'Italia non cresce. Ci è stato detto e indicato come struttura fenomenica da prendere a modello quello che succedeva in tanti paesi che crescevano di più perché avevano fatto le riforme strutturali. La crisi ha evidenziato che quella crescita non era il prodotto, è un po' come in Achille e la tartaruga, quella crescita non era il prodotto sostanziale, strutturale, l'effetto delle riforme. Quella crescita era prodotta dalla leva e dalla droga del debito, da plusvalori immobiliari inventati, una cascata di fenomeni che a ovest e a est del blocco continentale europeo ha prodotto situazioni di crisi drammaticamente evidenti. E siamo al primo tema di giornata, ossia la questione Mezzogiorno, posta con tanta forza politica dal presidente della Regione Sicilia, Raffaele Lombardo, il leader del Movimento per l'Autonomia, ma anche dal sottosegretario con delega al CIPE, sottosegretario della Presidenza del Consiglio con delega al CIPE, Micciche. A Palazzo Grazioli, residenza del Presidente del Consiglio, ve lo dicevamo poco fa in apertura, si è svolto un vertice su questo tema, sul tema del Mezzogiorno, un vertice che ha seguito il nostro Vincenzo Miglietta, Vincenzo anche con una piccola coda polemica da parte del Ministro dell'Ambiente Prestigiacomo, no? Sì, innanzitutto buon pomeriggio, è proprio così, la Prestigiacomo evidentemente pensava di essere tra i presenti al vertice, poi sì, ha detto nessuno mi ha invitata. Comunque al vertice voluto fortemente dal Presidente del Consiglio Berlusconi erano presenti il Ministro dell'Economia Tremonti e Matteoli, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Fitto, Affari Regionali, Alfano della Giustizia. Alla base dei malumori di molti esponenti del Sud, vi ricordate poc'anzi, Micciche, Lombardo, soprattutto la mancanza, loro dire, di misure adeguate nel decreto anticrisi che ieri ha ricevuto il via libera. Camera, è il caso proprio del Movimento per l'Autonomia di Raffaele Lombardo che non ha votato il decreto, secondo molti esponenti della maggioranza, però il braccio di ferro intentato da Lombardo è mirato all'ottenimento di un ministero. Il diretto interessato oggi però rigetta questa tesi, punta il dito sul nodo dei fondi, ricordiamo i fondi per le aree svantaggiate, e minaccia proprio il ricorso alle stelle. Sentiamo allora Lombardo. Finalmente in Italia si parli di un mezzogiorno, di una questione meridionale che era stata archiviata o come dire, derubricata a questione di criminalità o di inefficienza. La posta in palio è tanto importante per cui francamente la divisione non sta in piedi. Io non è che sia dialogante. Quando il Presidente del Consiglio mi dice faccio un piano Marshall o un piano straordinario per il rilancio del Mezzogiorno, immediatamente ci impegniamo sui FAS, ma io dico che francamente registro la svolta con favore, salvo poi non farsene nulla, perché ad esempio posdomani si riunisce il CIPE e potrebbe essere affrontato il nodo del FAS. Se non viene affrontato il nodo del fondo per le aree sottoutilizzate, solleverò l'argomento in sede europea. Lo dico con molta franchezza, se il governo lo fa, ha fatto una cosa giusta, con molto ritardo e io ne prendo atto. E dunque questa è la corrispondenza del nostro Vincenzo Miglietta, che ringraziamo e salutiamo nonostante il collegamento, non fosse eccellente. Nell'ambito delle strategie anticrisi, insomma, abbiamo parlato molto del decreto anticrisi nelle scorse settimane. Come sapete è passato ormai alla Camera dei Deputati, ci sono delle modifiche che sono delle modifiche in realtà minori, insomma di non particolare rilevanza rispetto a quello che è l'impianto complessivo del decreto, a parte quel che riguarda naturalmente i poteri di indagine della Corte dei Conti, e questo si presume che verrà risolto con un decreto legge ad hoc da parte del governo. In merito alle strategie anticrisi, c'è qualcosa di interessante che è avvenuto in Francia negli ultimi sei mesi, perché ci sono molte riforme francesi varate e pensate dall'amministrazione Sarkozy che sono state molto seguite dalla stampa, e ce n'è una che è stata seguita un pochino meno e della quale oggi il corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, Attilio Geroni, che è in linea con noi, racconta. Attilio, buongiorno innanzitutto. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Allora, Attilio, in cosa consiste questa mini riforma, che in realtà si è rivelata una maxi riforma? Dunque, nasce come una piccola riforma. Dal 1 gennaio è possibile in Francia creare un'impresa individuale, mettersi in proprio, con un nuovo dispositivo che si chiama quello di autoimprenditore. Chiunque lo desideri, basta aver compiuto la maggiore età, può registrarsi come autoimprenditore su internet, sul sito www.autoentrepreneur.fr. Attilio, chiariamo una cosa. La cosa forse veramente rivoluzionaria è che non è come da noi, che c'è la dichiarazione di inizio attività e comunque una serie di formalità burocratiche permangono. Assolutamente, veramente puoi iscriverti in 10 minuti e con qualche click su questo sito. E la cosa, la formula vincente è che non si comincia a pagare se non ci sono dei ricavi, se non si produce reddito. Quindi niente reddito, niente oneri, sia contributivi che fiscali, fino a quando non si guadagna. Attilio, chi può accedere a questo programma? Che limiti ha? E soprattutto quali sono i risultati? Perché la cosa impressionante sono proprio quelli. Allora, il governo si aspettava per tutta la fine dell'anno, per tutto il 2009, 200.000 nuovi autoimprenditori. Siamo già adesso 182.000 a metà anno, siamo già a un ottimo livello. Quindi alla fine dell'anno dovrebbero essercene 300.000 ed è un successo che va al di là di ogni aspettativa. Perché? Perché è semplice, chiunque può accedervi, perfino, basta, come dicevo prima, aver compiuto il 18° anno di età, e anche i funzionari pubblici, anche i pensionati, anche chi ha già un lavoro, perché nasce come strumento di integrazione del reddito. Uno dei problemi grossi della Francia, ma non solo della Francia, di tutta l'Europa, è la perdita del potere d'acquisto delle classi medie, delle classi operaie, e questo strumento nasce come uno strumento di anticrisi, ma va ben al di là, perché 182.000 autoimprenditori in Francia, che è il paese dove regna la funzione pubblica, dove l'iniziativa privata di un certo tipo, soprattutto quella commerciale, viene spesso guardata con sospetto, è un successo, è un fenomeno sociale non indifferente. E quindi chiunque può farlo, si può integrare il reddito, ci sono dei limiti, non puoi superare gli 80.000 euro di fatturato se la tua attività è un'attività di vendita di prodotti, 32.000 invece se è un'attività di vendita di servizi, ma le due attività fatte dalla stessa persona sono cumulabili. Dunque una piccola riforma, direi alla fine una delle migliori riforme di Sarkozy, una delle meno strombazzate e che funziona in questo periodo di crisi. Attilio, resta ancora un attimo con noi, questo potrebbe anche essere forse un buon suggerimento per quelli che elegantemente si definiscono policy maker, per i nostri politici, per chi è il decisore politico di questo paese. Ne parliamo di questo col professore Enzo Rullani, che è docente di strategia d'impresa all'Università Ca' Foscari di Venezia. Buonasera Rullani. Buonasera. buonasera. Allora, professore, che cosa le pare di questa iniziativa? È veramente interessante. E secondo lei, in un paese come il nostro, che già di microimprese ne vive sostanzialmente, se può essere qualcosa di interessante, insomma, al di là dell'integrazione del reddito, poi, che è comunque giro d'affari, insomma, PIL, denaro che si muove, no? Certamente, ma io direi che in questo nuovo attenzione della Francia verso le piccole attività disperse, quindi anche questi professionisti che diventano autoimprenditori, ci sta il riconoscimento, insomma, che il capitalismo moderno è più complesso di quello che ce lo raccontavano in termini di grandi concentrazioni, grandi poteri. In realtà è la rete diffusa delle intelligenze che mette in moto la produzione di oggi. E l'economia globale in fondo è popolata da multinazionali, ma anche da tante persone che dal piccolo ci danno da fare per utilizzare le cose che sanno fare. Ora, in termini di rapporto con le iniziative che nascono dal basso, io credo che la Francia stia facendo grandi sforzi per farle nascere artificialmente. Da noi nascono da sole, e anche questa misura avete degli autoimprenditori, in fondo noi ce l'abbiamo già. Si chiamano contribuenti minimi. Abbiamo praticamente la possibilità di fare dei lavori integrativi che sono compatibili con il primo impiego e anche con la pensione, lavorando fino a 30.000 euro con una tassazione del 20%, quindi sostanzialmente non credo che l'Italia da questo punto di vista abbia molto da imparare dalla Francia, piuttosto è la Francia che sta seguendo le nostre orme. E le ragioni per cui poi queste attività hanno successo. Ecco, professore, mi scusi, ma anche sulla facilità di tutto questo, insomma, se ne è parlato tanto nei mesi scorsi dell'impresa in un giorno, adesso appunto esiste la dichiarazione d'inizio attività. Devo dire che a me personalmente la cosa che più ha impressionato è il sistema per diventare imprenditori. Due clic e hai fatto. Lei sa che c'è un programma in Italia che non si riesce a far decollare, che è quella di diventare fare impresa in pochi giorni, insomma, no? Con due clic, come dice lei, insomma. E è un programma che è tanto che noi ci abbiamo e non riusciamo mai, come dire, a farlo decollare davvero. Quindi da questo punto di vista credo che la burocrazia francese sia più, come dire, più innovativa della nostra quando si tratta di semplificare le cose. Però tuttavia, voglio dire, non è questa la sostanza della questione. Cioè, il vero problema di questi neoimprenditori non è quello di essere facilitati nell'entrare sul mercato, ma è quello poi di far rendere quello che fanno sul mercato. E qui c'è una differenza fondamentale tra l'Italia e tutti gli altri paesi, e la differenza è la filiera. Cioè, se lei entra sul mercato come un piccolo imprenditore che ha pochi soldi e ha competenze solo in un campo particolare, lei ha assolutamente bisogno di comprare sul mercato o di trovare sul mercato comunque tutte le altre competenze, tutti gli altri capitali che lei non ha, per fare un prodotto finito che il consumatore possa apprezzare. Ecco, in Italia queste cose le troviamo, perché il nostro è un sistema di piccola impresa, lei va nel territorio, e specialmente nei distretti dove c'è una specializzazione sociale, lei trova tutto quello che le può servire. E quindi da questo punto di vista noi abbiamo sicuramente una condizione di eccellenza, insomma. Un'ultima domanda per Attilio Geroni, salutiamo intanto il professor Enzo Rullani, docente di strategia d'impresa all'Università Ca' Foscari di Venezia, che è stato con noi. Un'ultima domanda brevissima per Attilio Geroni. Attilio, è dalla tua esperienza diretta, per i francesi è qualcosa di assolutamente rivoluzionario questo? Sì, come dicevo prima, non è nella cultura francese promuovere un'iniziativa privata, soprattutto la piccola iniziativa privata. L'aspetto secondo me importante, anche se condivido come le riserve di fondo del professore, dice che ovviamente si tratta anche di gonfiare certe statistiche, questo è innegabile, però l'amministrazione francese fa un passo indietro e si rende estremamente leggera per permettere un certo tipo di attività. È un cambiamento culturale non indifferente, che a sua volta ne innesca un altro nella gente. La gente si rimbocca le maniche. Io ho conosciuto autoimprenditori che hanno abbandonato il loro posto di lavoro fisso perché l'attività di autoimprenditore andava bene. Ho conosciuto una ragazza che era disoccupata e adesso arriva un fatturato vicino agli 80.000 euro. Ora veramente l'ultimissima domanda, Attilio, e arriva da un ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666 ed è proprio il tema della burocrazia. Ci chiede: ma come funziona lì con un negozio, ad esempio, ASL, Vigili del Fuoco e cose di questo genere? Ma negli ultimi tempi c'è stata una semplificazione notevole delle procedure dell'apertura di attività commerciali. È un grosso progetto di legge, si chiama Legge per la modernizzazione dell'economia, dove le cose sono state migliorate. Si parte da una burocrazia molto pesante in questo ambito, però stanno cercando di alleggerirla. Grazie dunque ad Attilio Geroni, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, per averci tracciato questo affresco sui nuovi microimprenditori francesi. E siamo a fare il punto sulla giornata di borsa. Eleonora Micheli, Radio Cori, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, Eleonora, giornata mi sembra piuttosto brillante e le borse sembra che non si siano fatte assolutamente spaventare da Wall Street. In questo momento il Dow Jones cede lo 0,62%, ma le piazze finanziarie europee tengono tutte. Come mai? Sì, infatti, anzi, hanno rallentato leggermente il passo nel pomeriggio, proprio dopo l'apertura di Wall Street debole e soprattutto anche a seguito del fatto che è piaciuto poco il dato sui beni durevoli americani, che a giugno sono calati del 2,5%. D'altra parte, appunto, è durato poco tutto questo, le borse europee hanno ripreso a salire con vigore e comunque, ripeto, avevano solo rallentato il passo perché grazie all'effetto di alcune trimestrali è tornato l'ottimismo e conseguentemente ieri c'era stata una frenata, oggi si è tornati a comprare a man bassa numerosi titoli, soprattutto quelli delle società che hanno pubblicato trimestrali superiori alle attese. Ecco, tra queste ci sembra di capire, anche senza sapere le notizie, anche solo a guardare gli andamenti di borsa, Luxottica, Mediolanum, Mondadori, parliamo di un più 5,10% per la prima, più 4,78% per la seconda, più 4,5% per la terza. Tutto bene là. Esatto, in questo caso si può parlare proprio di effetto conti trimestrali. Luxottica ha pubblicato i dati del trimestre ieri a borsa chiusa, l'effetto si è visto oggi, è stato un effetto positivo, il mercato ha apprezzato il fatto soprattutto che la società abbia visto ridursi l'indebitamento rispetto appunto a fine marzo, e poi ha apprezzato anche il fatto che il fatturato dell'azienda è salito del 3,5% in un periodo ovviamente abbastanza difficile. Poi sempre oggi, come hai detto tu, hanno pubblicato i conti Mediolanum e Mondadori e l'effetto si è visto subito dopo la pubblicazione dei conti. Mediolanum ha accelerato il passo, più 4,78%, lo stesso Ennio Doris nel pomeriggio ha tenuto una conference con gli analisti per spiegare i dati. Nel secondo trimestre è stato registrato un utile addirittura record e l'imprenditore ha detto di essere molto molto ottimista per il futuro. Per quanto riguarda anche Mondadori, anche in questo caso il mercato ha reagito positivamente proprio alla trimestrale che ha visto i conti in miglioramento rispetto ai primi mesi dell'anno. In totale il semestre è riuscito a chiudere in utile rispetto invece ad altre società editoriali che abbiamo visto soffrire di più. Sempre oggi infatti ad esempio ha comunicato i dati che sono stati tuttavia in perdita la RCS, d'altra parte lo si sapeva già e infatti i titoli in borsa alla fine hanno guadagnato addirittura l'1,22%. Banche, Eleonora, non ce n'è una in negativo adesso, faccio un breve riassunto, più 3,08% per quanto riguarda Unicredit, Banco Popolare più 1,75%, insomma complessivamente sembra che le cose vadano bene, Mediobanca guadagna un più 1,12%, Intesa San Paolo più 0,81%, insomma complessivamente il mercato va su e di titoli in calo ce ne sono pochi, e però le banche sono tutte in positivo. È un tema di giornata o il tema di giornata sono i rialzi, punto e basta? Guarda, un po' un tema di giornata, le banche sono più o meno tutte in positivo, l'unica guarda che ha perso un po' di punti è la Banca Popolare di Milano, meno 1,16%, siamo in attesa a borsa chiusa dei conti della controllata banca Akros, probabilmente appunto questa attesa ha penalizzato i titoli, le altre come hai detto tu sono tutte in sostenuto del rialzo, ma non solo diciamo a Piazza Affari ma anche nel resto d'Europa, in particolar modo comunque si è distinta rispetto a Unicredit che ha riconquistato quota 2 euro che, sotto la quale era scivolata nei giorni scorsi. Anche in questo caso prevale l'effetto per la trimestrale che verrà pubblicata la prossima settimana. Fiat, Eleonora? Fiat oggi, guarda, sono andati bene tutti i titoli del settore auto, che è uno dei settori che ha registrato la miglior performance, e questo perché hanno pubblicato questa mattina i conti trimestrali Daimler e Peugeot. Entrambe le case auto hanno registrato delle perdite anche abbastanza sostenute. Daimler ad esempio ha chiuso il trimestre con un rosso di 1,1 miliardi di euro. D'altra parte gli analisti pensavano che appunto le perdite fossero ancora più gravi. Peraltro i vertici di Daimler hanno detto di essere abbastanza ottimisti per il futuro e di prevedere un miglioramento progressivo. Questo ovviamente ha incoraggiato gli ordini in acquisto un po' su tutto il settore, ovviamente anche sulla stessa Fiat, che così ha registrato questo progresso dell'1,66%. Ultime due brevemente, Eleonora: ST Microelectronics e Finmeccanica, dopo l'accordo di ieri con la Libia. Per quanto riguarda ST, più 2,99%, in un primo momento i titoli hanno aperto all'insegna dell'incertezza, ma insieme alla borsa, poi sono stati premiati dopo la pubblicazione dei conti, anche in questo caso trimestrali, che sono risultati superiori anche alle attese della stessa società. Ad esempio i ricavi sono risultati superiori ai target che nei mesi scorsi avevano dato i manager di ST. Per quanto riguarda invece Finmeccanica, ha registrato più 0,96%, d'altra parte i titoli si erano già distinti nelle scorse sedute a seguito anche di altre notizie, quindi la reazione non è stata, sembra almeno così, tiepida rispetto a questo importante accordo che la società ha firmato con la Libia. E grazie Eleonora Micheli di Radio Cori, il Sole 24 Ore, per essere stata con noi, per averci aiutato a capire questa giornata di borsa. In breve diamo un quadro generale di quello che sta succedendo in questi minuti sull'S&P MIB. Alcuni titoli ve li abbiamo già detti, come Luxottica, Mediolanum e Mondadori, che vanno bene. Bene anche Telecom Italia, più 3,74%, e Prismian più 3,44%, Atlantia più 2,96%, Autogrill più 2,72%, il Monte dei Paschi più 2,17%. Guadagnano l'1,60% tanto Fiat quanto Bulgari quanto Enel. Pirelli più 1,48%, Terna più 1,43%, bene A2A più 1,29%, veramente ce ne sono pochissime negative. Mediaset più 1,24%, Italcementi più 1,14%, Mediobanca più 1,12%, Finmeccanica in positiva, lo dicevamo, di un punto percentuale. Bene Generali, Intesa San Paolo e Impregilo appena sotto il punto percentuale. In negativo ci sono Saipem oggi che cede l'1,87%, la Popolare di Milano che cede l'1,16%, Snam Rete Gas lo 0,49%, Ansaldo lo 0,35%, Lottomatica lo 0,13%. Veniamo infine alla questione risanamento. Laura Galvagni del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Allora, ti abbiamo ospite spesso in questo periodo, Laura. La questione risanamento, ci sono degli aggiornamenti soprattutto giudiziari, mi sembra di capire oggi. Sì, esattamente. Questa mattina si è tenuta la tanto attesa udienza sul fallimento, che ha sostanzialmente rimandato tutto a settembre, ossia è stata accolta la richiesta degli avvocati di un rinvio e quindi il giudice ha stabilito che la nuova udienza sarà il prossimo 22 settembre. Entro però il 1 settembre la società dovrà presentare un piano di ristrutturazione che poi passerà al vaglio delle procure per eventuali controdeduzioni, che dovranno essere depositate anche quelle entro il 22 settembre. Sì, per il momento quindi c'è una sorta di stop, nel senso che a questo punto banche e società advisor si metteranno a studiare il piano di ristrutturazione nel dettaglio, con l'obiettivo di presentarlo completo entro il 1 settembre, come su richiesta del giudice sostanzialmente. La reazione in borsa è stata immediata, nel senso che probabilmente il mercato ha interpretato questa decisione del giudice come una sorta di concessione a banche e società di trovare la strada per evitare il fallimento, e quindi il titolo è salito. Sì, sì, questo è il quadro per quanto riguarda anche l'andamento di borsa. Ringraziamo Laura Galvagni del Sole 24 Ore che ci ha dato anche gli aggiornamenti oggi appunto sul risanamento, e ci sentiamo anche una voce da questa giornata di risanamento, cioè del neo presidente Vincenzo Mariconda, al termine dell'udienza davanti al giudice fallimentare. Sentiamolo. Abbiamo chiesto e ottenuto un rinvio, il pubblico ministero non si è opposto e quindi sono stati dati dei termini per il deposito del piano di ristrutturazione, dell'accordo del piano di ristrutturazione, 1° settembre per il deposito del piano. La magistratura ha apprezzato come positiva la nostra richiesta di rinvio, perché altrimenti non avrebbe aderito. Allora, subito prima della viabilità, torniamo a parlare di economia italiana e ne parliamo con un rapporto che è stato diffuso oggi da Unioncamere e dal Ministero del Lavoro, un rapporto che ha coinvolto oltre 100.000 imprese di tutti i settori economici di tutte le dimensioni, dal quale è emerso un pochino quali sono le professioni più richieste in Italia, suddivise tra professioni maggiormente specializzate e professioni meno specializzate. Tra le professioni maggiormente specializzate c'è più richieste, c'è quella degli infermieri in primo luogo, dei quali l'Italia ha una storica carenza, insomma è un fatto abbastanza noto, e poi addetti alla logistica, addetti al marketing e così via. Tra le meno specializzate, curiosamente al primo posto ci sono gli installatori di allarmi. Chissà se tutta la tensione che c'è stata negli ultimi mesi sul tema della sicurezza ha avuto un qualche impatto. Comunque, più in generale, su questa ricerca sentiamo Ferruccio Dardanello, presidente di Unioncamere, intervistato da Andrea Viali. Un dato significativo ed importante che si evince è che crescono le occupazioni acculturate, quindi nuove professionalità legate ad esempio all'aspetto della laurea, quale strumento di richiesta. Certe professioni in qualche modo sono più necessitate per dare qualche risposta particolare, ad esempio i settori in cui c'è forte richiesta e che non si trova sufficiente ancora manodopera per dare risposta è il mondo della sanità. Ecco, questo è un mondo, parliamo del mondo dell'infermieristica, di tutte le professionalità che servono in qualche modo a dare delle risposte concrete anche a una società che invecchia, quindi una società che ha bisogno di avere in questa direzione molte più nuove professionalità. Poi c'è il mondo delle professioni che riguardano ad esempio tutto il mondo dell'edilizia, palchettisti, elettricisti specializzati, lattonieri, tutti coloro che hanno una qualità specifica di dare risposte concrete alle necessità di questo che questo momento in qualche modo comporta e necessita. C'è poi tutto il mondo che ci auguriamo che i provvedimenti sulla casa vadano in qualche modo a determinare, per ridare quindi valore a questo esercito di piccole e medie imprenditoria che proprio legata al mondo della casa può dare nuove risposte concrete anche in termini occupazionali. Le 17:46 minuti, 40 secondi. Buonasera ad Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate. Buonasera. E buonasera in studio con noi a Jean-Marie Delbo, caporedattore di Norme e Tributi. Buonasera Jean-Marie. Buonasera. E parliamo di evasione fiscale perché naturalmente continua ad essere uno dei grandi temi, insomma, per risollevare le finanze pubbliche, per avere soldi da investire in, per esempio, in politiche di sviluppo, ecco, tanto per dare un'idea, ma anche molto semplicemente per ricondurre allo spirito civico necessario coloro che evadono. Allora Befera, io partirei da questo. In una intervista oggi lei dice incroceremo i dati che abbiamo sui beni di lusso con il reddito dichiarato. Quando ho letto questa intervista sono rimasto colpito, perché la prima cosa che mi sono chiesto: ma com'è possibile che si sia fatto solo adesso e che si sia pensato solo adesso? È effettivamente così? Si è pensato solo adesso? No, aspetti, il redditometro, che è l'elemento di capacità contributiva, cioè l'elemento che mette in evidenza la capacità di spesa e che quindi dà la possibilità poi di confrontarlo con il dichiarato, il redditometro esiste da decenni. Credo che... Ecco, che cosa cambia rispetto al redditometro, Befera? Dunque, innanzitutto noi faremo un accertamento più ampio rispetto ai beni previsti e inseriti nel redditometro, salvo che, come ho dichiarato, lavoreremo per migliorare comunque la qualità del redditometro. Ma il problema è un altro, secondo me. Stiamo spingendo molto, e l'agenzia lo faceva anche nel passato, ma non con questa particolare intensità. Stiamo spingendo molto nell'attività di controllo delle dichiarazioni con la capacità di spesa. Questo fino a qualche anno fa venivano fatti non più di 5.000 controlli, noi in 3 anni vogliamo passare a 40.000 controlli. Vogliamo cioè mettere in evidenza che ci sono dei soggetti che hanno una capacità di spesa molto elevata, e questo lo facciamo utilizzando i poteri che ha l'agenzia per avere gli elenchi di acquisti di opere d'arte, di operazioni di noleggio di auto di lusso e altre operazioni di spesa di questo genere. Con questi elenchi faremo un controllo sulle dichiarazioni, e se c'è una forte diversità chiederemo chiarimenti ai cittadini e poi eventualmente agiremo con l'accertamento. Befera, si parla moltissimo, naturalmente, come sempre in Italia, di lotta all'evasione. C'è un rilievo che è stato fatto un paio di giorni fa dalla Corte dei Conti su questo tema. La Corte dei Conti dice: il decreto legge attualmente al varo, con lo scudo fiscale, con l'approvazione dello scudo fiscale, ed è un tema che riemerge sempre ogni volta che si parla di condoni e di scudo fiscale, naturalmente non è un tema di oggi, però la Corte dei Conti lo sottolinea come suo dovere, rischia in sostanza di vanificare la lotta all'evasione fiscale, perché spinge ad un comportamento irregolare. Il concetto è un po' evado adesso perché tanto so che comunque in qualche modo la situazione si sana. Lei intravede questo rischio? Allora, premesso che non sta a me criticare le decisioni che prende il Parlamento, ma al di là di questo io questo rischio stavolta non lo vedo proprio, perché bisogna inserire lo scudo fiscale in un contesto più ampio. Ci sono due norme nello stesso decreto legge che parlano di lotta all'evasione nei paradisi fiscali, quindi il continuare a possedere del denaro o comunque dei beni patrimoniali nei paradisi fiscali, e la norma che riguarda le società che sono all'estero. Ecco, vista in questo contesto, io credo che questo pericolo non ci sia, nel senso che lo scudo farà rientrare o regolarizzare dei patrimoni che sono attualmente all'estero, ma d'ora in poi non giochiamo più su questo fronte. Noi faremo una struttura speciale che seguirà proprio possedimenti di patrimoni all'estero, in accordo con la Guardia di Finanza, e su questo saremo pronti a impedire il ripetersi di cose che sono successe nel passato. Resti con noi, Befera. Jean-Marie Delbos, oggi hai scritto un pezzo sul Sole 24 Ore piuttosto interessante sul tema degli studi di settore e sui controlli. Che cosa emerge da quel che sei riuscito a capire, ad apprendere? Allora, emerge che i controlli da studi di settore hanno come caratteristica quella di dover essere implementati, rafforzati da altri elementi. Questo lo dicono anche le circolari che vengono fatte dal centro, quindi dall'Agenzia delle Entrate. Che è un po' quello che ci diceva anche Befera, del resto. Esatto, no? È un po' quello che ci diceva il dottor Befera quando parlava di rafforzamento col redditometro. In realtà il problema è più complesso, perché le circolari si allineano alla Cassazione, gli uffici periferici, secondo le testimonianze raccolte dai professionisti, non sempre sono così disponibili ad applicarle. Si genera una sorta di sfiducia nei confronti degli studi di settore, sfiducia che porta al fatto che sugli studi di settore ciclicamente, annualmente, si scaricano le tensioni fiscali, anche perché lo studio di settore è un elemento che, siccome ti calcola i ricavi, si vede, tu lo fai girare come un programma e diventa, come dire, il capro espiatorio di tutta la protesta fiscale del momento. Bene, C'è una domanda che arriva da un ascoltatore che mi sembra corretto girarle, Befera. Dice, oddio, va presa con le pinze naturalmente. Dice, perché solo 40.000 controlli incrociati, in futuro ci sono 20 milioni di autonomi da controllare? Ora, non ricominciamo con questa guerra autonomi dipendenti, perché diciamo non, è chiaro che è più facile evadere se si è lavoratori autonomi, però non è che l'evasione non... Jean-Marie Delbo voleva intervenire. Forse una notazione andrebbe fatta in questi termini. I 40.000 controlli hanno la loro spiegazione laddove si considera che la lotta all'evasione, se si considera che la lotta all'evasione non deve servire principalmente per recuperare gettito, credo che poi Befera sia d'accordo, ma deve servire per convincere i contribuenti che la soluzione più opportuna non è quella di correre il rischio dell'evasione, ma è quella di mettersi in regola col fisco, al di là poi dei livelli fiscali giusti o meno, su cui si può a lungo discutere. Quindi 40.000 possono anche bastare, basta che siano fatti bene e che vadano a non essere contestabili troppo facilmente, insomma. Certo, che siano mirati. Befera, che ne pensa? Esattamente il mio pensiero. Il problema del fisco non è controllare a tappeto, e poi non sono 20 milioni di soggetti, ma saranno un paio di milioni. Sì, comunque sono. Ecco, non è controllare a tappeto, sarebbe tecnicamente impossibile, non lo fa nessuno in nessuna parte del mondo. Il problema è riuscire a fare degli accertamenti fatti bene, quindi efficaci, e farne un numero sufficiente perché siano visibili, non i singoli accertamenti, ma la mano del fisco, l'intervento del fisco, proprio per ottenere quell'effetto che noi chiamiamo di deterrenza, e che spinge poi al comportamento corretto, che è l'ultimo vero scopo dell'attività di accertamento. Ripeto, l'accertamento non serve perché andiamo a controllare ogni anno 20 milioni di dichiarazioni e vediamo se sono fatte bene o male, ma serve per creare quell'effetto di efficienza e di efficacia del fisco che spinge ad evitare il rischio di essere presi in caso di evasione. E perché, volendo, immagino, Befera, ad avere il personale di controlli ne fareste pure di più, no? Dunque, il personale, noi abbiamo circa 18.000 persone sull'attività di accertamento, però non è che ci abbiamo da controllare soltanto i lavoratori autonomi, sia ben chiaro. Quindi ecco, lì possiamo parlare di 20-25 milioni di contribuenti che in qualche modo devono essere messi sotto controllo, insomma. Quindi, ma sarebbe anche inutile e inefficace, pensi lei, se dovessimo fare veramente i controlli a tutti ogni anno, sarebbe una impensabile. Impensabile. Jean-Marie Delbo, hai un'ultima domanda, abbiamo un paio di minuti per... Volevo chiedere, guardi, emerge una differenza notevolissima delle imposte medie accertate tra controlli da studi e controlli sempre sugli stessi soggetti con altre tipologie e altre metodologie. Come mai? Ma guardi, io qui sono, insisto molto, l'ho detto più volte, lo studio di settore non è uno strumento di controllo di per sé, è uno strumento che serve per al momento della propria dichiarazione per verificare se la propria dichiarazione è allineata o meno allo studio di settore, quindi serve nella fase di liquidazione, di calcolo della dichiarazione. Questo è lo scopo principale, poi viene utilizzato anche per attività di controllo, ma non c'è e non vogliamo che sia, e se qualche ufficio continua a farlo noi opereremo perché questo non avvenga più, non è uno strumento per un calcolo automatico di quanto si sarebbe dovuto dichiarare e non si è dichiarato, non è assolutamente questo, serve come punto di riferimento, ma ci vogliono altri elementi per poter arrivare a dichiarare che c'è e a effettuare un accertamento, questa è la nostra logica. E che non sia uno strumento di controllo lo si evince anche dai 70.000 controlli che facciamo ogni anno contro 3 milioni e mezzo di soggetti che fanno, sono legati allo studio di settore. Quindi noi facciamo un numero limitatissimo di controlli. Quindi è proprio lo spirito che è completamente diverso, non è uno strumento di per sé di controllo. Brevemente, Jean-Marie, volevi dire prendo una cosa? Nota che lei ha detto interverremo sugli uffici, lo scriviamo sul giornale, è un impegno, è un impegno in diretta. È proprio questa. Bene, grazie ad Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Strade, per essere stato con noi. Grazie a Jean-Marie Delbo, caporedattore di Norme e Tributi, che ci ha aiutato, diciamo, su questo tema, sul tema dell'evasione fiscale. Ringrazio naturalmente tutti voi per l'ascolto. Grazie a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi in redazione, Filippo Aureggi in regia. Focus Economia torna come sempre domani alle 17:00.